in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa pre-pasquale, ma sempre internazionale, che come potete immaginare anche questa settimana ruota intorno all'emergenza sanitaria, economica e sociale legata al coronavirus. È davvero un tema globale, anche se di molti paesi non sappiamo abbastanza o forse non ci preoccupiamo abbastanza. È globale la dimensione dell'epidemia, le conseguenze economiche e persino alcuni temi che rimbalzano da un paese all'altro, come la mancanza di equipaggiamento adatto per chi deve lavorare a contatto con le persone che hanno il coronavirus, quindi infermieri, medici e tutto il personale che lavora negli ospedali o sulle ambulanze. Un altro tema è quello della disponibilità delle mascherine, ci sono molte polemiche anche in Francia. Un altro tema ancora è quello del turismo, il turismo che verrà, il turismo più tradizionale in Europa e nei paesi occidentali, cioè quello estivo. In Spagna si prevede che nessuno potrà entrare o uscire dal paese e in Spagna il turismo è ancora più importante che in Italia. E lo stesso vale per la Germania, dove forse non ci sono mai tanti turisti in arrivo in estate, magari in altre occasioni per festival musicali, ma ce ne sono tanti in uscita. E come abbiamo visto sui giornali di questa settimana, sempre per darvi un esempio di come questi siano temi trasversali, soprattutto in Europa, per questa estate i medici, le associazioni dei medici tedeschi sconsigliano fin da ora ai tedeschi di uscire dal paese per le vacanze. Ma vediamo un tema che proprio riguarda tutti i membri dell'Eurozona, che poi sono praticamente tutti i paesi europei, essendo al momento a bocce ferme il Regno Unito uscito dall'Unione Europea ed essendo stato sempre fuori dall'Eurozona. Vox Europe ha pubblicato la traduzione di una bella analisi di Alternative Economique sui famosi Eurobond, che a volte vengono chiamati Corona Bond, ma in realtà sono dei titoli di Stato che appunto, anziché fare capo a un singolo Stato, come sono i nostri BOT, come sono i Bund tedeschi, come ha ogni paese, in questo caso sarebbero appunto stampati dalla Banca Centrale Europea e quindi farebbero riferimento all'intera Eurozona. Perché non sono una priorità? Questo è il tema. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, a squarciagola sta dicendo che bisogna in qualche modo che l'Europa in questo momento si mostri solidale con tanti paesi. Poi sappiamo il risultato dell'Eurogruppo, gli olandesi che dichiarano vittoria, Angela Merkel che non può ufficialmente, evidentemente, o forse non vuole, mostrarsi favorevole a questi Eurobond, e quindi forse appunto sarebbe il caso, come in fondo dai primi risultati dell'Eurogruppo sembra essere successo, focalizzarsi non tanto sull'Eurobond ma su altri strumenti opportunamente modificati per questa situazione eccezionale. La Zeit, invece, un settimanale tedesco molto, molto interessante, anche, vi invito anche a sfogliarlo, è graficamente sempre molto creativo ed è anche però estremamente autorevole, ha pubblicato un appello, che è uscito anche su Le Monde, di diverse personalità tedesche, tra cui il filosofo Jürgen Habermas, che è comunque una voce molto ascoltata in Germania, ma anche di economisti, che chiedono proprio i Corona Bond. Perché? Perché serve questa creazione di Corona Bond per aiutare gli stati ad affrontare la crisi. Naturalmente ci sono alcuni stati, lo sappiamo benissimo perché siamo direttamente coinvolti, come l'Italia e la Spagna, che in questo momento sono più colpiti di altri, ma se si è in un'Unione Europea, questo è il ragionamento di chi ha firmato l'appello, alla fine se non come fu nel caso della Grecia, ma se alcuni paesi per un fattore assolutamente imprevedibile esterno, come l'epidemia da coronavirus, soffrono, alla fine soffre l'intera Unione. Un altro intervento favorevole ai Corona Bond è uscito sui Deutsche Zeitung, un altro quotidiano tedesco. Naturalmente sapete che questa settimana il quotidiano tedesco Die Welt ha invece, che un quotidiano conservatore, la Süddeutsche Zeitung è un po' il contrario, ha pubblicato un articolo dove ci si diceva chiaramente contrari a qualsiasi forma di aiuto extra per l'Italia in particolare, un articolo che ha fatto arrabbiare molte persone, ma che, come sto cercando di spiegarvi, non è l'unica opinione sulla stampa tedesca, che comunque è una stampa assolutamente libera, e quindi le opinioni, di chi scrive o di chi trova ospitalità sulla stampa tedesca non sono quelle del governo, e soprattutto i giornali non devono rendere conto al governo tedesco, così come in Italia, per fortuna, e in tutti i paesi dove la stampa è libera, i giornalisti e le testate, appunto, si prendono la responsabilità di quello che scrivono. Ma su Deutsche Zeitung, il segretario generale dell'OCSE, Angel Gurria, si è detto favorevole all'introduzione di questi titoli che, in un altro modo, possiamo definire di debito comune, ma sempre quello sono, cioè i corona bond o gli euro bond. Ha detto: la condivisione dei rischi finanziari è il prossimo passo necessario per l'integrazione europea. La crisi coronavirus sta mettendo gli stati dell'euro di fronte alla domanda se sono pronti per più Europa. Per questo credo sia legittimo, ha detto appunto Angel Gurria, che questa forma di aiuto sia agganciata a condizioni politiche. È in carica dal 2006, quindi non è un modo per trovare visibilità all'inizio di un incarico. Ha visto molte crisi, quella del 2008, il baratro in cui era precipitata la Grecia qualche anno fa, e poi ancora tutte quelle successive. Quindi diciamo che è un parere autorevole. Un'altra questione importante, non soltanto per la Francia, ma in questo caso vi citerò un articolo di Le Figaro, è quella del trasporto aereo, che naturalmente è in crisi profonda. Si riprenderà quando si riprenderà il turismo, quando si ricomincerà a viaggiare, sta già succedendo in Cina, ma al momento tutte le grandi compagnie, lasciamo stare il caso all'Italia che fa storia a sé, ma anche le compagnie che erano comunque in buona salute, Delta Airlines negli Stati Uniti, ma in fondo anche Air France, KLM in Europa, ovviamente adesso non lo sono più. E allora Le Figaro ha toccato il tema della possibile, perché sapete che una parte di Air France è controllata dallo Stato, una parte del capitale di Air France è riconducibile allo Stato francese, il 14,3%, mentre in KLM anche è presente lo Stato olandese. Potrebbe esserci una ricapitalizzazione se il peso economico dello stop di fatto a tantissime tratte fosse troppo per tenere questo gigante europeo del trasporto aereo in piedi. Una cosa interessante, anche mi sono dimenticata di dirlo all'inizio, un altro tema trasversale è quello della fine dei lockdown e della ripresa delle attività commerciali e produttive in particolare, o magari appunto la possibilità di spostarsi. Sapete, in Europa l'unico paese che sembra aver dato una data certa è l'Austria, però Le Monde, per esempio, ha fatto una lunga chiacchierata con Anne Hidalgo, attuale sindaco di Parigi, che ha già proposto un suo piano per uscire dal confinamento. Lo ha proposto al primo ministro Edouard Philippe, e se ne sta probabilmente cercando, questa è un'ipotesi, non ci sono ancora comunicati ufficiali, di raccogliere più proposte, anche se Parigi è una delle città più colpite, quindi è chiaro che la proposta che viene da Parigi avrà un peso specifico diverso da quelle di altri sindaci o di altre autorità locali, di trovare una sintesi. Intanto, per esempio, dal martedì di questa settimana c'è un divieto di fare attività sportive all'aperto tra le 10 e le 19, perché nello scorso weekend si sono viste, non soltanto a Parigi e non soltanto in Francia naturalmente, molte persone, per esempio, correre per strada e difficilmente riuscire in ogni caso a rispettare il famoso distanziamento, che, lo ricordiamo, la maggior parte dei paesi europei indica in 1 metro. Per gli Stati Uniti invece sono 6 piedi, che sono circa 2 metri. Vi dicevo del tema delle mascherine. Le Figaro ha pubblicato un sondaggio e dal quale emerge che 3/4 dei francesi pensa che il governo abbia mentito su questo tema. Secondo lo studio, il 76% dei francesi ha mentito sulla utilità delle mascherine, perché, dicendo che non erano così importanti, perché in realtà non ce n'erano abbastanza né per il personale medico-sanitario né naturalmente per tutti gli altri. Molti altri temi sui giornali economici, come potete immaginare. Tra l'altro, ogni settimana gli Stati Uniti pubblicano le statistiche sulle richieste di sussidi e con quelle della settimana scorsa si era arrivati, di giovedì scorso si era arrivati a oltre 10 milioni, se ne sono aggiunti altri 5-6 l'altro ieri e quindi il numero è veramente fuori controllo e tutti i giornali americani spiegano che essendo un'emergenza mai vista addirittura dalla crisi, dal crollo della borsa e poi la crisi del 29, negli Stati Uniti ci sono gli uffici che devono raccogliere questi dati e cercare prima di tutto di smistare le richieste di sussidi, ma anche possibilmente di cercare di proporre delle alternative, sono tutti nel caos. E anche questo, se vogliamo, è un tema. Pensate a quello che è successo qui in Italia con il click day dell'INPS. Ultima segnalazione che vorrei farvi è dalla BBC che ha fatto un po' i conti in tasca alla Premier League, l'equivalente della nostra Serie A di calcio, e siccome molte delle squadre di calcio britanniche sono quotate, il coronavirus rischia di abbattere il valore delle rose della Premier League di oltre 1,7 miliardi di euro. In realtà c'è un'ultima segnalazione che vi vorrei ancora fare, è un articolo del New Scientist tradotto da Internet nazionale che trovate in edicola da ieri, che si intitola I colori del cosmo. È un articolo bellissimo con alcune fotografie che spiega come alcune immagini dell'universo siano spettacolari, ma non riflettono in realtà quello che vedrebbero i nostri occhi e non quei meravigliosi e potentissimi occhi dei telescopi. Era davvero l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.